Se cade una stella e chiedi qualcosa, guardando la spera, il sogno si avvera. Non so, ma se mi guardi e mi sorridi, il cuore mi batte forte, forte, forte. Mi sento quasi mancare il respiro. Come un bambino son triste, sospiro. Non so, ma quando tu mi sei vicino, aspetto qualcosa che non giunge ancora. Ti vorrei dire le parole più belle che i poeti san dire. Il perché non lo so, forse so.